Abbiamo un nuovo ospite, un ospite diciamo indigeno, si può dire. È uno dei Francesco. Buonasera. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. È uno dei primi, se non erro, è uno dei primi, delle prime persone che hanno iniziato il progetto di Mondeggi. Un socio fondatore. Socio fondatore, mettiamola così. Bene, raccontaci un po' questo percorso brevemente. Da 3 anni, giusto? Avete fatto il compleanno? Sì, abbiamo fatto il compleanno, anche se il percorso è iniziato un anno prima, perché c'è stato un anno di preparazione. E vabbè, si tratta di una tenuta in origine di circa 200 ettari, ora un po' meno perché qualcosa sono riusciti a vendere. E diciamo che nell'ultima fase era stata inserita all'interno di una azienda, un SRL agricola. La proprietà è l'ex provincia, ora città metropolitana. E niente, questa azienda è fallita fondamentalmente, è stata posta in liquidazione perché all'origine mi sembra avesse accumulato 500.000 di euro di debiti. Non sono precisissimo, ora rischio di non essere precisissimo sulle entità, però diciamo che alla fine, dopo qualche anno, siamo arrivati, li hanno ripianati giusto un paio di mesi fa, un mese fa, a 1.500.000, quindi era triplicato. Naturalmente si tratta di soldi, erano dovuti alle banche, quindi sotto questo profilo direi hanno fatto un ottimo investimento per cambiare. E niente, naturalmente ci si può poi sbizzarrire sul perché c'è stato questo fallimento fondamentalmente manageriale e comunque economico. Si può continuare a sostenere, come sempre si fa in questi casi, che dipende dall'incapacità manageriale appunto delle istituzioni. Secondo un'altra scuola di pensiero alla quale io appartengo, diciamo che secondo me invece loro professionalità ce n'hanno fin troppa, e bisogna stabilire che tipo di professionalità e che capito? Fini anche appunto, quindi dipende da a cosa ti serve. Se voglio dire, ti serve per una imprenditorialità economica, certamente è stato un management totalmente fallito. Se si parla da un altro punto di vista, di strumento per organizzazione del consenso, distribuzione di risorse e governamentalità sociale in generale, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. D'altro canto, voglio dire, hanno lasciato un buco che è stato ripianato con soldi pubblici, con il quale hanno distribuito appunto prebende, hanno organizzato un consenso sociale. Adesso tendano, se gli riesce, a venderlo, quindi incassano altro che avranno modo di impiegare e reinvestire nelle modalità consuete. Insomma, mi sembra, secondo questo tipo di professionalità, mi sembra tanto di cappello. Sono bravi? Direi, ecco, cioè, a me non riuscirebbe. Ecco, non sono riusciti a venderlo. Fra l'altro, ho visto che hanno addirittura, dopo vari tentativi di vendita, hanno aperto un bando di interesse. Sì, manifestazione di interesse. Manifestazione di interesse. È un po' una frassi che sembra che stia prendendo campo nell'amministrazione nell'area fiorentina, perlomeno. Sì, perché secondo me, lettura personale, ma penso abbastanza condivisa, la manifestazione di interesse serve a stabilire non tanto che ci siano dei compratori, perché lì basta fare un'asta, qual è la finalità economica o comunque speculativa, chiaramente, del compratore, perché in funzione di questo obiettivo io amministratore pubblico posso modificare la destinazione d'uso, perché qui c'è una destinazione d'uso agricola, e qui capisci, ce ne fai poi speculazioni se voglio dire, se non campi, capito, voglio dire, non ci campa nemmeno le imprese, voglio dire, a meno che non abbiano delle dimensioni, quindi è chiaro. Bene, e appunto ospita tanti progetti Mondeggio, ho visto qua ci sono un sacco di cartelloni informativi, veramente di tante attività agricole e non, anche di trasformazione di tutti dei prodotti, e ci vivono anche delle persone. Sì, sì, ci sono dei residenti, e questo è diciamo dall'inizio, perché dovendo coltivare non puoi non risiedere, cioè, nel senso, anche solo, cioè, fu fatto un tentativo pilota, più che altro diciamo pubblicitario, all'epoca, il primo anno, quando ancora non c'era stata questa presa in custodia, diciamo, della tenuta, erano state piantate delle cipolle, salvo il vero, un intero orto di cipolle, e chiaramente è tornato una mattina, tre o quattro giorni dopo non c'era più niente, perché è chiaro che sono presi certo, se non è. Insomma, voglio dire, gente a, cioè, non in termini speculativi, perché che vuoi che ti fai di un motocarro di cipolle, insomma, non è che ci, però insomma c'è gente anche che ha fame, insomma, dorme, per cui, capito? Certo, ora persone che residenti, ma anche una grossa partecipazione di non residenti. Sì, sì, no, quello francamente si è mantenuto, diciamo, è a progetto, parte, io per esempio non sono un residente, ma ci sono molti che continuano a partecipare in questa veste collaterale da un punto di vista residenziale, ma a livello assolutamente egualitario rispetto alla partecipazione, sì, anche in termini di potestà decisionale, insomma, l'assemblea plenaria è costituita da tutti coloro che partecipano al progetto e decide. Infatti ho visto che cioè, ci sono, ora state facendo la raccolta delle olive, sì, in collettivamente, che tra l'altro è un lavoro che da fare collettivamente, perché sì, sì, si alleggerisce molto, certo, fisicamente. Se non sbaglio, è stato anche il primo atto, sì, verso le terre lasciate in colte di Mondeggi, quella, sì, di raccogliere olive che nessuno, sì, avrebbe raccolto. Venne raccolto clandestinamente, diciamo, sì, poi è stato fatto dell'olio ed è stato distribuito gratuitamente o a offerta libera, sì, a chi voleva, alla popolazione, ma una pubblicizzazione dell'iniziativa, diciamo, ecco. Ecco, ma appunto ci sono i residenti che stanno affrontando dei problemi, sono arrivate delle denunce per l'occupazione dello stabile, penso, e penso anche furto aggravato, mi diceva qualcuno in questi giorni. Quindi, in un certo senso, vi si può definire illegali? Ah, indubbiamente noi siamo illegali, è evidente in una, cioè, la legalità non, in qualsiasi situazione è una legittimazione di un determinato assetto di poteri, di una determinata concezione dell'organizzazione sociale. E voglio dire, il tipo di legalità che esiste oggi in Italia, come esiste in qualsiasi area del capitalismo globale, è fatta apposta per, no, perché esperienze come la nostra o di tipo consimile non possano esistere. Quindi, insomma, oltretutto, quello che forse vale la pena notare è che paradossalmente il tipo di illegalità non è reale, nel senso che in termini costituzionali ci sono più di un articolo del dettato che ci dà ragione in pieno, no? Perché ne si voglia forzare la lettura o lo spirito, la lettera o lo spirito, è perché proprio così ci sono delle affermazioni anche dirette, circostanziate, parlavamo di noi, che sono state inviate, e anche più di una, per esempio Paolo Maddalena, che è un ex presidente della Corte Costituzionale, vicepresidente della Corte Costituzionale, Ugo Mattei è un accademico, cioè loro sostengano esplicitamente che nel nostro caso, come in casi consimili, non si può assolutamente parlare di illegalità perché, cito più o meno testualmente le parole di Maddalena, in una certa misura l'iniziativa popolare, l'iniziativa dal basso ha tentato di riparare con i mezzi che aveva a disposizione a un'effettiva illegalità che è quella istituzionale. Giusto, perché certo. Per esempio al di là di come è stata gestita l'azienda agricola, però indubbiamente proprio a prescindere da tutto, un bene pubblico non può essere alienato dall'amministrazione che la gestisce, perché l'amministrazione la amministra ma non ne è proprietaria. Il proprietario a titolo di sovranità è il cosiddetto certo, popolo certo, italiano certo. Quindi, capito, questi sono fuori legge come promulgano una qualsiasi convocazione d'asta. Il problema è che, come sempre accade, voglio dire, se non c'è nessuno glielo va a contestare, certo, cioè, inutile, poi passa per la verità, capito? Per esempio Marchionne, certo, se tu vai a vedere l'articolo 41 della Costituzione, è totalmente che parla della finalità sociale e la proprietà privata, assolutamente non è in condizione nemmeno di pensare a poter trasferire la Fiat fuori d'Italia. Lo fa, nessuno gli dice nulla e capisci, rimane illegittimo ma diventa legale, cioè, pur essendosi preso dallo Stato tutti quei soldi che si è preso. Certo, no, ma ha detto, vi ricordate tempo fa, disse loro semmai avevano andato più che aver preso, perché avevano cioè, la memoria breve fra... no, hanno una memoria noi lunga, altri dico. Sì, immagino, sì, abbastanza. Ma infatti, a proposito di quest'ultimo argomento degli spazi di legalità e illegalità e di come questi siano concetti e dunque soggetti al divenire dei tempi, sei stato fra i contributori del documento introduttivo e delle tracce, insomma, seguite per l'assemblea di stamani mattina che abbiamo mandato in diretta. In conclusione abbiamo di nuovo riletto quel documento, quindi diversi di quelli che ci hanno ascoltato hanno avuto modo di sentirlo. E infatti io vorrei citarne un breve estratto e poi farti una domanda, che è: come è andata? Che si è detto? D'accordo. Che ne dici? È molto breve. Quando appunto parliamo, ad esempio, sono due domande. Siamo sicuri che la tenuta dell'organizzazione sociale dominante non sia agevolata dal fatto che non riusciamo a proporre e ad avviare un progetto significativamente alternativo? O detto altrimenti, che per svariati motivi accettiamo di scorrazzare in uno spazio marginale e recintato, una sorta di area cani assegnataci dal sistema globale, gestibile ordinariamente dagli apparati periferici di controllo? Siamo sicuri che non sia arrivato il momento di deterritorializzarci e di saltare le barriere per fare altro, effettivamente altro, ossia di esercitare una critica pratica non neutralizzabile, non riconvertibile, non recuperabile agli interessi del capitale? Si è parlato di questo stamattina e che ne dici? Che si è detto? Come stiamo messi? Ma direi che, contrariamente a qualche tempo fa, e non è uno dei primi episodi che mi testimoniano questo che sto per dire, direi che, appunto, contrariamente a qualche tempo fa, comincia a esserci, insomma, la percezione che questo è un problema grosso, molto grosso, che abbiamo di fronte. E quindi, beh, insomma, sono contento dal mio punto di vista, insomma, ecco. Ho visto c'è sensibilità rispetto a questo nodo, ancora si brancola un po' nel buio rispetto a delle soluzioni, però, come ho anche detto stamani intervenendo, non è una di quelle situazioni in cui noi partiamo da zero. E che non abbiamo focalizzato, come posso dire, la struttura mentale per immaginare che quello che si ha a disposizione può essere connesso in quel modo, cioè in un modo altro, alternativo. Però secondo me noi abbiamo, almeno per una fase iniziale, abbiamo abbastanza da poter interconnettere. Il problema è di far rete, che ormai è diventato, come dire, un sintagma molto espresso più o meno in ogni situazione, però di far rete comune, che insomma non è la stessa cosa, non è più soltanto il problema, certo, di collegarsi, è il problema di interconnettersi. Sì, sì. Anche di avere in un certo senso un metodo e delle linee. Sì, ora lo sai, diciamo da in questa fase e penso, spero anche durabilmente, non è più il momento, perché è fallimentare, a mio parere non è più il momento di determinare un modello che è quello e che va replicato eventualmente con adattamenti o con piccole declinazioni, cioè non ci può essere più un'impostazione come quella che c'era stata 40-50 anni fa, che era un'impostazione abbastanza dottrinaria, dogmatica in qualche modo. Qui occorre prevedere anche delle declinazioni più decisamente plurali. Quello che va condiviso è comunque un settore d'orizzonte, perché a me non mi può interessare relativamente se il tipo di sviluppo è orizzontale, mi può anche interessare relativamente che tipo di percorso fai, se ti concedi più o meno a delle concezioni che magari non mi trovano tanto in accordo, ma quello che mi interessa è che se abbiamo deciso che il settore d'orizzonte verso cui ci muoviamo è quello, non se ne scelgo un altro, sì, certo, è quello che mi qualifica, capito? Bene, molto bene. È stato. Sì, sì, ora se posso aggiungere, certo, era quello il discorso. Semmai appunto, e su questo occorre fare uno sforzo, perché appunto non abbiamo probabilmente ancora. Non abbiamo questa confidenza con questo tipo di concezione. Di, sì, sì, sì, è una cosa di che ambito, è un po'. E quindi occorre sforzarsi di mettere in piedi dei canali comunicativi e di riempirli, sì, sì, con quello che c'è già, perché ripeto, competenze, capacità che, come sottolineavo stamani, talvolta vantano anche delle tradizioni pluriennali, e insomma ci sono e andrebbero sfruttate per sviluppare un percorso alternativo e contrario a quello, però parallelo, capito? Certo, certo, un'alternativa. Esatto. Benissimo. Bene. Grazie a voi. Buon lavoro. E buon lavoro anche a voi.